9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, oggi lunedì 21 di febbraio e questa puntata è dedicata a una decisione che è stata assunta, quella di festeggiare con una festività nazionale il 17 di marzo come festa nazionale, sapete, il 150esimo dell'unità italiana. Tuttavia questa decisione è stata una decisione che ha fatto e fa molto discutere. E io mi limito a tre obiezioni prima di vedere con i nostri ospiti, di chiedere a voi come la pensate nei collegamenti telefonici. Mi limito a osservare in tre brevi considerazioni i motivi che potrebbero indurre a qualche perplessità intorno alla scelta che è stata fatta di questo 17 marzo. La prima è una considerazione di ordine storico, perché il 17 marzo del 1861 è il giorno in cui il Parlamento del Regno d'Italia, ex Stato Sardo, le elezioni si erano tenute, le prime elezioni da poco, approva un articolo unico nel quale si afferma che il re Vittorio Emanuele II assume per sé e per i suoi successori il titolo di re d'Italia, punto. A questo Parlamento però non partecipavano alla sua elezione i cittadini di Mantova e Lombardia, quelli di tutto il Veneto, quelli di tutto il Friuli, lasciamo perdere quelli del Trentino Alto Adige, che naturalmente arrivano quasi 60 anni dopo, alla fine della Prima Guerra Mondiale, dopo la sconfitta degli imperi centrali, mancava naturalmente tutto il Lazio, insomma quel giorno l'unità non c'era in realtà. E soprattutto questa formula, tra i diversi giorni dell'epopea risorgimentale, è una formula che insomma più che altro è una formula che vale per la dinastia più che per gli italiani, cioè vale per i Savoia. Ricordo a tutti che quel giorno in Parlamento ci fu chi disse, ci propose che l'articolo unico fosse che era il popolo italiano a proclamare re Vittorio Emanuele re d'Italia e a proporre che fosse Vittorio Emanuele I re d'Italia, e invece, come esattamente avvenne per esempio per Enrico III di Navarra, che è diventato re di Francia nella numerazione ordinaria di Francia, accettò di chiamarsi Enrico IV, o come capitò a Giacomo VI di Scozia, che quando prese la corona d'Inghilterra accettò di chiamarsi Giacomo I, invece ovviamente i Savoia no. E questa, diciamo, è una prima obiezione storica che ha un suo rilievo storico, però insomma ce l'ha. Poi ce n'è un'altra di ordine culturale, perché in questa battaglia che avete visto, battaglia un po' troppo, in questo confronto di idee che c'è stato acceso nelle ultime settimane intorno alla scelta di questo 17 marzo, io ho assistito a una cosa che mi ha molto colpito, mi ha molto fatto riflettere. Ci ho visto molto trasversalismo e finalmente, dico così, intorno all'unità ci troviamo tutti, ma insomma emerge anche qualche elemento di distonia culturale. Mi ha molto colpito per esempio la sera del Festival di Sanremo, il grande festival nazionale popolare, vedere tra le icone del 150esimo anniversario a favore dell'unità eccetera eccetera, la grande icona di Antonio Gramsci. Dico, chiunque di noi abbia letto Gramsci sa che Gramsci è il critico spietato quasi per definizione del processo risorgimentale unitario, perché è quello che viene descritto come un moto di elite al servizio della corona, che non risolve i problemi sociali né delle campagne né dei ceti più bassi, il contrario di una rivoluzione sociale, scriveva Antonio Gramsci, eppure lo vedo celebrato come un'icona dell'unità nazionale. Evidentemente tutta la storiografia egemonica marxista che ho letto nella storia repubblicana italiana cambierà di segno, piuttosto che meglio re Vittorio che re Umberto, se mi accettate la battuta, rispetto a Bossi. Poi la terza cosa è quella economica. Sapete benissimo, ci sono state tutta la sezione di imprese italiane, tra cui Confindustria, editore di questa radio, Mare d'Italia, tutti quanti, che hanno fatto notare al governo che la scelta fatta senza troppo riflettere le modalità della festività è una scelta che finiva per far gravare sulle imprese 4 miliardi di euro di oneri, che insomma non è proprio il massimo quando si tratta di far riprendere l'economia. Alla fine il governo su questo ha deciso di rientrare con le coperture del 4 novembre, ma insomma le polemiche sono rimaste, perché l'intenzione delle associazioni di imprese non era quello tanto di badare al risparmio, anche se insomma si trattava di entrare in un'orbita di idee per la quale per la prima volta una festività poteva essere celebrata lavorando in modalità nuove e diverse, perché l'idea è quella anche di trasfondere uno spirito nuovo all'Italia, quello di dire tiriamoci su tutti sulle maniche, chi ha agganciato la ripresa e chi sta provando ad agganciarsi, proviamo a raccoglierci per 10 minuti sui posti di lavoro intorno ai simboli dell'unità nazionale. Non è passata neanche questa, perché la si è accusata di essere filosecessionista, filoleghista, meschina, eccetera eccetera eccetera. Allora, queste tre brevi obiezioni per dire che siamo riusciti nell'intento insomma di assumere una decisione non proprio al meglio. Io non ne faccio una questione di governo o non governo, il mio non è levare critica al governo. Si è capito che trasversalmente tutti hanno qualcosa che non torna intorno a queste faccende. Mi ha colpito per esempio l'editoriale del Corriere del solitamente ottimo Gian Antonio Stella, che ridotto a dover celebrare il valore unitario comunque se l'è presa con chi sosteneva l'argomento economico, troviamo una modalità per cui non costi al paese, dicendo beh, ma insomma poi nella graduatoria internazionale dei paesi che vanno molto meglio dell'Italia ce ne sono alcuni in cui si lavora molto meno, mica adesso vorremmo lavorare tutti di più. Mi è sembrato un argomento stridente per essere il fondo del primo giornale borghese economico indipendente d'Italia, il Corriere della Sera, questa roba di dire ma in fondo si può crescere di meno, si può crescere anche di meno lavorando di meno, ma tutto sommato non è quello il problema. Non so come dire, mi è sembrato in tutto questo che ci sia qualcosa su cui vale la pena riflettere. Allora, vediamo con i nostri ospiti di capire meglio perché arriviamo in questo modo a questo giorno, che è un giorno, io lo so, sono un vecchio repubblicano, che però non mi va molto giù per questo, però va bene. Allora, i nuovi due ospiti in questa prima parte della trasmissione sono il ministro della gioventù Giorgia Meloni, che io ringrazio e saluto, buongiorno ministro. Buongiorno a voi. E il deputato europeo della Lega Nord, presidente del gruppo consiliare della Lega a Milano, Matteo Salvini. Buongiorno Salvini. Buon lunedì a tutti. Allora, ministro Meloni, ha sentito a me fare la parte dell'avvocato del diavolo. A lei è la difesa. Molto bene, per la verità. No, a lei la difesa. Ma guardi, no, in verità io non penso di dover difendere qualcosa, nel senso le valutazioni che lei fa, Giannino, sia sul piano storico, culturale, economico, sono tutte valutazioni assolutamente interessanti. Io penso però che a monte ci sia una questione, cioè noi quando si tratta di questi temi, cioè quando si tratta di noi, dell'Italia, del senso d'appartenenza, delle ragioni che ci legano e del fatto che ogni tanto, come in qualunque grande nazione del mondo, vale la pena di celebrarsi, noi facciamo esattamente quello che per esempio fa lei, cioè ma tutti quanti spacchiamo il capello in quattro e siamo lì a vedere se le date appunto che abbiamo scelto sono le date perfette, se gli uomini erano uomini perfetti, se in qualche maniera tutti i nostri trascorsi storici erano all'altezza, se non valga la pena di farlo in un'altra maniera, se culturalmente sia quello l'elemento da valorizzare, il che è straordinario sicuramente. Però ci ha man mano tolto il gusto di celebrarci, che è la base del vivere comune di ciascuna nazione nel mondo. Cioè noi possiamo, anche io sono repubblicana, che sono monarchica, per cui sono entusiasta di poter celebrare il 17 marzo in ragione del fatto che ho una predisposizione verso la monarchia. Io penso però, così come so che il Risorgimento italiano è stato comunque una guerra e le guerre, come tutti i grandi sommovimenti, come tutte le grandi rivoluzioni, porta con sé tante contraddizioni, tanta sofferenza, oltre alle vittorie, tante sconfitte, e noi di questo dobbiamo essere consapevoli su un piano storico ed è giusto che lo studiamo e che lo approfondiamo, ma questo non può essere ostativo rispetto alla possibilità di dire che se noi oggi siamo una nazione questo lo dobbiamo a qualcuno. Lo dobbiamo a generazioni di gente che prima di noi si è sacrificata per consegnarci la terra sulla quale viviamo. Perché? Non per il dato museale del nostro passato. Guardi, a me non interessa celebrare il 17 marzo perché per ricordare che cosa è stato il Risorgimento. A me interessa dire agli italiani di oggi che il Risorgimento, per esempio, è stato l'epopea di tanti giovanissimi che sono morti a 20 anni, sacrificando tutto quello che avevano per questo sogno di unità e per questa idea chiamata Italia, che esisteva certo da prima, non è che ce la siamo inventata con il Risorgimento, però conveniva alle nazioni straniere dividere l'Italia, ok? E c'è stata una generazione di ragazzini, di giovanissimi, armati di fucili vecchi, che hanno travolto un esercito infinitamente più potente di loro, e l'hanno fatto ricorrendo un sogno e un'idea. Allora, perché noi lo dobbiamo ricordare? Perché quella dimensione del sacrificio è la base di qualunque popolo, di qualunque esistenza comune, perché se noi non capiamo che la nazione nella quale viviamo è la somma di quei sacrifici, non capiremo mai neanche perché vale la pena che noi facciamo dei sacrifici per chi verrà dopo di noi. Perché dobbiamo pagare le tasse? Perché dobbiamo investire nella ricerca? Perché dobbiamo investire, per esempio, nei giovani? Cioè, perché investiamo in tutto quello che non ci torna immediatamente utile, che non torna utile solamente a noi? Perché noi siamo un popolo, perché noi non siamo semplicemente oggi, non siamo semplicemente quello che è stato, noi siamo un progetto per il futuro, noi siamo una sfida, siamo una scelta. Ecco, io penso che valga la pena ricordare le ragioni di quella scelta, ricordare gli uomini che hanno sacrificato qualcosa, gli uomini e le donne, che sono tantissimi, e penso che sia francamente un po' così, insomma, io non mi sento di condividere questo bisogno che noi abbiamo rispetto al dato dell'appartenenza, rispetto al dato dell'italianità, rispetto al dato dell'identità, stare lì sempre a spaccare il capello in quattro come se fossimo l'unica nazione al mondo che non ha mai avuto un eroe, che non ha mai avuto personaggi straordinari nella propria storia, che non vale mai niente, tant'è che noi abbiamo i nostri ragazzi che celebrano patrioti di altre nazioni, o guerriglieri boliviani o patrioti scozzesi, perché non conosciamo i nostri, e questo anche è un problema. Quindi a me piacerebbe che, ad esempio, il 17 marzo, che è comunque la data più unificante che noi celebriamo, con tutti i limiti che ha, Giannino, ma noi abbiamo una nazione che chiude le scuole per il 25 aprile, chiude le scuole per il 2 giugno, cioè sono tutti momenti che comunque straordinari, ma hanno sancito le grandi divisioni, quindi anche lì si potrebbe spaccare il capello in quattro. E qui le vengo brevemente al dato economico. Guardi che a me va benissimo, noi possiamo anche decidere che in Italia si cambia registro, e siccome siamo in crisi economica, ma anche se io non sarei mai comunque d'accordo a sottomettere agli interessi economici la celebrazione di quello che uno è, perché sennò veramente rischiamo una deriva che non mi sento di condividere. Però diciamo, per esempio, aprire le scuole per studiare il risorgimento nelle scuole, come si è detto, io sono d'accordo, purché lo si faccia per tutte le festività, perché altrimenti è strumentale. Allora mi si dice che si va a scuola il 25 aprile, che si va a scuola il 1 maggio, che si va a scuola il 2 di giugno, eccetera, eccetera, e io sarò d'accordo, purché si verifichi che nelle scuole questo avviene, perché per esempio in Italia c'è anche una festa, il giorno del ricordo dei martiri delle foibe e degli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia, che scade ogni anno il 10 di febbraio, che prevede che questa storia venga, che è stata nascosta per 60 anni in Italia, e sono altri italiani morti che l'Italia ha nascosto per interessi di parte, ok? Beh, ogni anno c'è una legge che dice che questa storia va studiata nelle scuole, e c'è una media, penso, neanche del 50% delle scuole che celebrano questa ricorrenza, perché diventa tutto ovviamente anche molto discrezionale, quindi purtroppo non abbiamo certezza in questo senso. E quindi io penso molto serenamente che celebrare il 17 marzo sia un elemento che può consentirci di ricordarci non tanto da dove veniamo, ma dove stiamo andando. Bene, è una sintesi però chiara, è una sintesi molto precisa del sì, sa, tanti dubbi, poi non spaccate il capello in quattro, che detto a me è di una sottile perfidia da parte del ministro, ma amichevolmente l'accetto senza replica. Però insomma, diamoci una data che sia quella di un simbolo da celebrare per riflettere intorno al fatto che poi l'epopea risorgimentale c'è stata. Allora, Matteo Salvini, naturalmente la mia stima perfidia è di leggere che cosa proprio quel 17 marzo del 1861 Costantino Nigra, che era segretario generale del governatore delle province meridionali, che era il principe Eugenio Savoia Carignano, Costantino Nigra, amicissimo di Cavour, era inviato da Cavour al seguito del principe, in realtà a essere l'occhio e l'orecchio del governo dello Stato sardo nella Napoli post garibaldina, così scriveva quel giorno, proprio quel 17 marzo 1861, a il presidente del Consiglio Cavour, che poi morirà all'inizio di giugno, un mese e mezzo dopo praticamente. Allora, scriveva Costantino Nigra il giorno dell'Unità d'Italia: lascerò Napoli diventata davvero provincia italiana, non nello spirito della popolazione, per questo ci vorrà tempo, molto tempo, ma nella forma dell'amministrazione. I pericoli però non sono affatto passati. Pensi che abbiamo infiniti soldati borbonici sbandati, senza occupazione, senza vitto. Abbiamo i briganti che in primavera e per anni occuperanno i monti. Abbiamo il clero nemico, i garibandini malcontenti, irritati, affamati. 500 di essi, dopo aver preso congedo e soldo per 3 mesi, si trovano ora qui in preda alla peggior consigliera, la fame e rubano per vivere. Abbiamo febbre tifoidee che imperversano nei reduci di Gaeta e mettono in commozione la città. Gli ufficiali napoletani di terra e di mare irritati, malcontenti, mal ricevuti dai nostri. L'aristocrazia ci è avversa, fa il lutto dei Borboni a Portici, gli operai dell'arsenale e delle ferrovie, inquieti. L'immenso numero dei municipali, offesi nei loro interessi. I devoti, in soqquadro per l'abolizione dei conventi, gli impiegati, gli infiniti curiali, l'immensa caterva di chi viveva dell'elemosina ufficiale di ruberie, implacabile assedia alle nostre porte. I cittadini reclamanti di continuo contro la gravezza degli alloggi militari. E poi gli ufficiali piemontesi reclamanti di continuo contro la gravezza della loro condizione. Gli impiegati piemontesi, tutto il giorno, tutto quello che viene dall'Italia settentrionale, non cessano dal dire apertamente e declamare ogni sorta di ingiurie, ammettiamolo, talora e quasi sempre meritate, contro tutto quello che vedono ed odono qui. Ecco, in qual bolgia Vostra Eccellenza mi ha mandato, e per sovrammercato pochi carabinieri. Ma come si può fare di venire a capo di questo mezzogiorno? Quel giorno, così scriveva, gli occhi e le orecchie del governo dello Stato sardo a Napoli. Matteo Salvini, che considerazioni le vengono sul 17 marzo 1861? Ma la preoccupazione della Lega e di molte persone anche che non votano Lega comunque, che si usino queste celebrazioni per mettere la polvere sotto il tappeto, per far finta che vada tutto bene, per far finta che l'Italia sia unita, perché io sfido chiunque ci stia ascoltando, a prescindere dall'idea politica e dalla professione, a dirci che oggi l'Italia è unita, che il sistema scolastico siciliano è paragonabile a quello veneto, che un ospedale calabrese funziona come uno lombardo e che soprattutto il pagamento delle tasse, il livello di spreco, di assistenza e di parassitismo sia uguale. Il saggio di Luca Ricolfi, Il sacco del Nord, ci ricorda come il ministro Meloni dice: non parliamo di vil denaro, c'è da celebrare una nazione, e però c'è una nazione dove ogni anno 50 miliardi di euro partono da nord e giungono chissà dove. Quindi che cosa festeggeremmo il 17 marzo? Una ricorrenza storica sicuramente, anche se controversa. Io ho studiato storia all'università, la storia la scrivono i vincitori, però fortunatamente, oltre a questa mattina su Radio 24, in libreria iniziano a uscire tanti libri che rileggono il Risorgimento anche nell'ottica dei conquistati, perché vista da sud il Risorgimento fu un'operazione di colonizzazione economica e militare, che portò malattia, portò il servizio militare, portò tassazione. E visto da nord, ripeto, fu una fusione di due realtà che erano diverse allora e rimangono diverse oggi. Quindi quando Bossi dice siamo noi a cercare di portare a compimento il Risorgimento in ottica federale, come voleva lo stesso Cavour, non bestemmia, anzi, se uno si legge O Roma o Morte di Arrigo Petacco, scopre che Cavour morì in condizioni misteriose, poi secondo una parte di letteratura, però morì con il cruccio di non lasciare un'Italia federale. Quindi il 17 marzo del 2011, con massimo rispetto di chi festeggerà, di chi celebrerà, molti amministratori della Lega saranno in ufficio per cercare di tenere unito questo paese, però non nel nome della retorica sanremese, perché un paese che ha bisogno dopo 150 anni di farsi spiegare il testo dell'inno nazionale ai più sconosciuto da un comico, ricevendo poi gli elogi del presidente Napolitano, è un paese che ha qualcosa che non va. Se i nostri ragazzi celebrano altri patrioti, altre feste, è perché evidentemente una festa o la senti dentro, non è che puoi decidere anche di far festa nazionale tutti i giorni. L'Italia ad oggi è iniqua, è ingiusta, è squilibrata sia a nord che a sud, quindi viva le celebrazioni se ci saranno celebrazioni, ma se queste servono, non dico da parte del ministro Meloni, ma da parte di qualcuno per lavarsi la coscienza e poi dire abbiamo festeggiato, va tutto bene madama la marchesa, e allora no, e poi le considerazioni economiche sono lì, io mi metto nei panni di un artigiano, di un commerciante, di un piccolo imprenditore che si troverà di fronte a un ponte di 4 giorni, perché siamo seri, se la festa la piazza il giovedì, poi voglio vedere chi trovi il venerdì e il sabato, soprattutto come dipendente pubblico nella pubblica amministrazione, va bene festeggiare, si poteva festeggiare il sabato e la domenica, per carità di Dio, o no? Io ho incautamente sostenuto questa tesi, mi sono beccato molti improperi, ma un po' rimango di questa idea. A me non dispiace per niente lo spirito con cui Giorgia Meloni dice: abbiamo avuto per decenni delle date nazionali che dividevano l'Italia, perché non sancivano per milioni e milioni di italiani, per la memoria e la tradizione dei loro familiari, di chi si trovava in quelle condizioni, un giorno di esclusione o di ammissione, ma da parte di chi era vinto. E quindi troviamone una invece che celebri l'unità di questo paese, l'epopea del Risorgimento. Non è questo il punto. Il modo mi è sembrato significativo, può essere che sia io a spaccare il capello in quattro. In questo capisco che Giorgia Meloni mi trafigge bene, perché dice: sì, però attenzione, che spaccando il capello in quattro tu non fai altro che indebolire ulteriormente invece che costruire il cemento comune. Però insomma, Roberto Benigni che deve... Roberto Benigni, non ho niente contro Roberto Benigni, ma perché? Quella roba a me rafforza l'idea che in questo paese il forza qualcosa si dice solo allo stadio, e chi di simboli unitari me le deve dare Roberto Benigni. Sono proprio un renitente alla leva, io che pure difendo i militari. Ma singolare autocollasso di un paese in cui chi crede di avere le tradizioni non riesce a immedesimarsi poi nella loro volgarizzazione. E questo probabilmente è un altro problema, quello di chi ha la testa e si crede elite, in questo caso sto facendo autoaccusa, e invece dovrebbe capire che poi un paese esiste, soprattutto se c'è una maniera nazional popolare di celebrarne le date unitarie. Però io avrei preferito lavorare. Pubblicità. Allora, quel Parlamento il 17 marzo del 1861 che diede a Vittorio Emanuele II di Sardegna, secondo la numerazione dei Savoia, il titolo per sé per i suoi successori di Re d'Italia, era stato eletto da meno di 170.000 italiani, su un totale di allora di 26 milioni, quindi stiamo parlando di meno dell'1%. Di questi 170.000, pensate, più di 70.000 erano dipendenti statali. Un'altra cosa che nelle mie manie antistataliste mi fa un po' grattare la testa. Io ovviamente sono per parlamenti eletti su base un pochino più ampia di quella così rigorosamente censitaria. Bisognava avere 25 anni all'epoca, bisognava essere non solo perfettamente alfabetizzati, ma bisognava soprattutto pagare un'imposta che avesse un minimo di ruolo annuo di 40 lire, e questo spiegava perché nel Parlamento la maggioranza fosse di principi, duchi e marchesi in quello eletto. Ricordo a tutti che poi una prima estensione elettorale avviene nel 1882, si abbassa della metà il ruolo d'imposta, ma i criteri sono più o meno gli stessi. Poi invece una estensione molto ampia avviene con Giolitti, e poi nel 1946 si arriva al suffragio universale anche per le donne. In un sondaggio pubblicato ieri dal Sole 24 Ore e realizzato dal Laboratorio di Analisi Politica e Sociale dell'Università di Siena, tre cose su cui riflettere. Primo, ancora più del 34% degli italiani, secondo il campione del sondaggio, non sa dire l'unità quando è avvenuta, alcuni la collocano addirittura nel Novecento, quindi insomma direi che una grande consapevolezza diffusa non c'è, altro che le parole dell'Inno d'Italia. Sul federalismo c'è un 43% di atteggiamento del sondaggio favorevole o molto favorevole, un 34% contrario. Quanto a nord e sud, si vede che il paese resta molto spaccato, perché per più del 40% il 40% dei cittadini del nord ritiene che il mezzogiorno sia un peso per lo sviluppo del paese, e come avete visto poco meno del 40% però dice che il federalismo potrebbe avere effetti negativi e contrari. Quindi insomma il nord non si fida del sud, il sud non si fida del nord. Sentiamo ora come la pensa su questa modalità di festeggiare il 17 di marzo 1861 il presidente dell'associazione industriale bresciana Giancarlo D'Aldera, perché a Brescia in realtà è stata una delle parti d'Italia in cui imprenditori e sindacati si erano, per così dire, già quasi intesi, organizzati su una modalità nuova e diversa per, certo, celebrare l'unità, ma insomma in maniera tale da farla con un'idea nuova di lavoro, perché il lavoro unisce e ci serve. Allora, Presidente, buongiorno. Cosa farete in realtà quel giorno? Buongiorno a lei. Cosa faremo? Intanto diciamo che la soluzione trovata dal governo riduce abbastanza l'impatto di carattere economico sulla fermata del 17. Io ho detto sin dall'inizio che sarebbe stato opportuno senz'altro celebrare, anzi andava celebrato questo anniversario, ma allo stesso tempo sarebbe stato molto più opportuno spostare questo festeggiamento in una giornata di sabato. Fermare la produzione durante la settimana, per di più con la possibilità di un lungo ponte, io lo ritengo assolutamente sbagliato per un paese che ha il minor numero di giorni lavorativi anno, e quindi dovremmo pensare a ridurre le festività più che aggiungerne un'altra. Questo è stato il mio pensiero sin dall'inizio e continua ad esserlo ora. Cosa faremo le imprese? Io penso che molte imprese, soprattutto quelle legate al mondo delle fonderie, fonderie di ghisa, fonderie di alluminio, fonderie di acciaio, che hanno quindi problematiche con lo spegnimento, col ciclo continuo, assolutamente, io penso che troveranno una soluzione con i propri dipendenti di continuare l'attività produttiva. Questo è il mio pensiero e questo è quello che penso che succederà sul nostro territorio. Oh, mi sembra una maniera, devo dire, comprensibile e molto rispettosa sia dei valori che il Quirinale ha inteso molto. Il Quirinale ha pesato molto nella scelta del governo e delle modalità, però a me sembra che questa maniera del presidente dell'Associazione Industriale Bresciana, tenuta nella dovuta considerazione fin dall'inizio, secondo me avrebbe consentito una scelta sì, ma una scelta anche nuova e diversa, forse anche tale da superare quel freddo, quell'incomprensione generale, quella mancata adesione popolare che giustamente il ministro Meloni poi ci richiamava come essere il primo problema del nostro paese, di quelli che spaccano il capello in quattro se appartengono all'elite, o di quelli, se mi permettete, che se ne fregano abbastanza, perché questa roba dicono boh, ma insomma, l'unità, ma poi in definitiva nord e sud è così tanto diverso da quello che scriveva Costantino Nigra quel giorno di marzo del 1861 a Camillo Conte di Cavour. Purtroppo no, perché poi in 150 anni il gap da colmare, quella che era la vera sfida unitaria, l'abbiamo vinta questa sfida? No, l'abbiamo persa. La Germania in 20 anni di unità ci ha dimostrato oltre i 2/3 del gap coperto tra est e ovest, e noi siamo fermi come contributo del PIL delle regioni meridionali a quello nazionale al 23,8%, esattamente quello che era nel 1951. Siamo al 2011 con oltre 400 miliardi di soli aiuti straordinari in questi anni, questo è il rapporto Simez 2009, ne sono passati altri due, che non hanno spostato di un decimale di punto il PIL del sud. Questo è il vero problema, aggiungo io, forse, che continua a dividere gli italiani, perché questi 150 anni, la missione storica, l'hanno davvero poi ottenuta dal punto di vista economico, del reddito, del contributo alla crescita? Direi di no. E questo è un argomento, cari ascoltatori, che mi dite fai il leghista anche oggi? No, ma questo è un argomento oggettivo, è un argomento fattuale che implica le corresponsabilità di tutte le classi dirigenti da allora. Ci sono dei modelli che hanno ottenuto dei risultati nell'immediato dopoguerra meglio di quelli degli ultimi 30 anni in cui abbiamo semplicemente dilapidato denari. C'è un problema delle classi responsabilità, delle classi dirigenti locali, non c'è dubbio, però la riflessione è questa: la missione è 150 anni di unire economicamente un paese e di renderlo più forte nella parte più debole, noi non l'abbiamo vinta per niente, abbiamo ottenuto semplicemente di spalmare la media della parte che è più produttiva, più produzione industriale della stessa Germania, cioè il nord-ovest e soprattutto il nord-est, oramai insieme alla Lombardia, di annacquarla e renderla più debole. Questo è l'effetto di 150 anni, non solo questo, ma in sintesi. Sentiamo alcuni ascoltatori, sentiamo Tiziana da Milano per esempio. Buongiorno. Buongiorno a tutti, volevo dire due cose, che col cuore sono d'accordo con quello che dice la bravissima, il bravissimo ministro Meloni, con la testa però devo dire che sono perfettamente d'accordo con quello che dice Salvini e quello che dice lei, ma volevo sottolineare un'altra cosa, che il fatto che non ci sia questo gran sentimento nazionale è in parte dovuto al fatto che gli stessi che adesso con grande retorica e trombonismo lo celebrano e vengono a spiegarci cosa significa l'inno e a raccontarci tutte queste menzioni, sono gli stessi che per 50 anni hanno svillaneggiato il concetto di patria, di risorgimento, eccetera, facendoli passare per valori assolutamente retorici. E adesso vengono a farci la morale. Allora a tutti questi io faccio un sonoro pernacchio, come direbbe Totò. Grazie. Tiziana, mi ritrovo in questa faccenda perché tutte le controversie storiografiche e storiche che ho avuto da quando avevo 15 anni a oggi, e un pochino mi fanno pensare come lei, come Rosario Romeo, era in assoluta minoranza, il più grande storiografo di Cavour, dell'Italia liberale, in assoluta minoranza, trattato come un appestato dalla storiografia ufficiale marxista del secondo dopoguerra, come un appestato perché osava sostenere che l'interpretazione brutal gramsciana, chiamiamola così, che è un grande pezzo della storia della cultura del Novecento italiano, non aveva colto l'essenzialità della missione, certo elitaria, dell'elite della destra storica che dal 1861 al 1865, in 4 anni, pensate, unifica i codici, fa cose incredibili, il meglio del meglio dei 150 anni, secondo me, sta nei primi 4 anni. E dopodiché adesso ci vediamo chi ha bastonato i pochi Rosario Romeo, che oggi ci dice: no, guardate, Gramsci, il 150esimo, questo sì che, beh, voi non amate la patria. Vabbè, d'accordo, non stacco il capello in quattro, memore della lezione del ministro Giorgia Meloni, che per conto mio dovrebbe avere un portafoglio, lo dico sempre, un po' più importante per la sua concretezza. Sentiamo Tarcisio da Varese. Sì, buongiorno. Buongiorno Tarcisio. Io penso che la polemica sulla giornata sia solo, come dire, un falso problema. In realtà noi siamo uno Stato ma non una nazione, nel senso che analizziamo un attimino come è stata fatta l'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia è stata fatta contro e non a favore, contro la Chiesa, contro il Sud, contro una certa nobiltà. Se mi ricordo bene, quando si unirono Piemonte e Lombardia, i Lombardi avevano chiesto l'intervento del Piemonte e venne l'esercito piemontese guidato dal re, eccetera. Al sud mandammo Garibaldi, per l'amor di Dio, un eroe, però politicamente era smentibile il giorno dopo. Al sud si aspettavano forse di abbattere i Borboni, ma non volevano i piemontesi. Quello che io dico è che gli italiani tutto sommato sono rimasti con la testa all'Italia dei comuni. Lo vediamo anche oggi, lo vediamo in mille cose, ci riconosciamo in una sola cosa, nazionale di calcio. Ma da questo lei dice, siccome sono rimasti con la testa indietro e divisi, meglio farle cose come la celebrazione oppure prenderne atto e non farle? Ma non serve a niente, anche perché questa celebrazione, tutto sommato, quella parte che la difende forse più per difendere quello che è stato poi la liberazione successiva alla Seconda Guerra Mondiale. Non a caso è stato detto prima che la stessa parte per anni ha svillaneggiato chi aveva senso di patria, che per una vera e propria unità. Insomma, io ho letto la storia d'Italia di Montanelli e si capisce subito che è stata fatta il contrasto, c'è ancora oggi. Sia nord che sud. Chiarissimo, l'abbiamo visto. Però Tarcisio, vede, devo fare l'avvocato del diavolo fino alla fine. Non c'è solo la sinistra nella decisione del 17, perché se no potrebbe avere anche ragione, no? E quindi l'argomento della singolare proposizione proprio dei più spietati critici dell'epopea risorgimentale, della destra storica, di tutto ciò che in realtà getta i semi nella lettura gramsciana del fascismo, vederci oggi che sono loro che ci dicono che è tutto positivo. Però a fianco di costoro, in realtà la decisione poi l'ha presa il governo Berlusconi, in realtà a battersi per la decisione con polemiche molto dure e con toni molto alti è stato il ministro La Russa, abbiamo qui il ministro Giorgia Meloni, quindi è un po' difficile, capisci, non è che sono solo i marxisti che difendono adesso il 17 marzo 1861. E quindi è meglio interrogarsi. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, poi torniamo ai nostri ospiti. Eccoci tornati in studio sulla scelta di celebrare l'Unità Nazionale, giorno in cui il 17 marzo 1861, un giorno simbolo perché il primo Parlamento, l'Italia a cui mancavano ancora pezzi, Marche, Trentino, Veneto, Mantova, Friuli, eccetera, eccetera, però insomma da Vittorio Emanuele II titolo di re d'Italia. Antonio Ciano, che è presidente onorario del Partito del Sud e assessore al demanio del comune di Gaeta, quindi Gaeta stiamo parlando l'ultima grande fortezza della resistenza eroica borbonica ai bombardamenti dei Savoia, con l'intrepida regina che diventa un simbolo da allora della resistenza della dinastia borbonica, molto più dello stesso marito Francesco II. Ma insomma, per Antonio Ciano questa scelta del 17 marzo 1861 che sapore ha? Allora, nel 1861, il 17 marzo nacque il sedicente Regno d'Italia, mancavano però il Trentino, mancava il Lazio, mancava il Veneto, mancava il Sud Tirolo, mancava Nizza e Savoia venduti, altro che Cavour, questo era un traditore della patria, vendette la contea di Nizza e la Savoia alla Francia, mancava l'Istria, la Dalmazia, il Canton Ticino venduto da Ludovico il Moro alla Svizzera, mancava la Corsica e mancava Malta, ma di quale unità d'Italia? Qua manca tre quarti d'Italia nel 1861. Ma poi è nato un regno barbaro. Barbaro? Però l'economia del sud, barbaro. Un milione di morti nel sud che hanno chiamato briganti, ma in nessuna parte del mondo si vede che una repubblica vada a festeggiare il regno abbattuto. In Francia Sarkozy festeggia la Repubblica il 14 di luglio, a Marzabotto non vanno a festeggiare Reder, perché io a Gaeta hanno fatto 4.000 morti quegli infami senza dichiarazione di guerra, qui abbiamo ancora le macerie di quella guerra assassina. Quindi lei dice hanno vinto, lei dice l'assessore, cioè, lei dice in realtà è come andare a festeggiare Reder a Marzabotto, cioè lei esatto, ha fatto per la stessa, ma Reder ha fatto 1.000 morti lì, qui hanno ammazzato 1 milione di persone nel sud, ma i nostri deputati e senatori repubblicani, ma ste cose le sanno o no? Da chi sono stati votati ed eletti questi qua? Questi un giorno pagheranno queste cose qua. Ma però l'Italia è spaccata in due. La domanda che le faccio: è nata una repubblica, ci sono stati 87.000 partigiani morti, migliaia di americani per ridarci la repubblica e vogliono farci. Assessore, non faccia la predica. Mi risponda alla domanda, ma in questi 150 anni, insomma, e comunque nell'Italia repubblicana, diciamo negli ultimi 65 anni, non è che i temi che lei adesso sta denunciando, che sono i temi di una rilettura molto critica della storia unitaria, però in realtà nel sud non hanno costituito la reazione delle masse degli elettori meridionali, sono parte di una rilettura critica che in questi anni si sta rafforzando del processo unitario, però non sono parte del sentire comune della gente. Come mai, secondo lei? Il sentire comune della gente del sud è che 150.000 giovani devono emigrare verso il nord, perché il risorgimento a noi ci ha spezzato e colonizzato l'economia, ma lo sa lei che tutta quella che chiamano economia italiana in realtà è toscopadana, è dell'Emilia Rossa, della Toscana, della Lombardia e del Veneto. E vabbè, però sa, da quelle parti pensano che è anche vero che voi fate solo il 7% dell'export nazionale, non perché vi abbiano obbligati, quindi insomma, ecco, ho proposto apposta, come avete sentito, questa voce molto combattiva, molto radicalmente, dice addirittura che i Savoia e l'armata sarda erano come i nazisti di Reder, per chiedere al ministro Meloni e a Matteo Salvini due considerazioni finali. Iniziamo da Salvini, una rapida risposta a questo meridionalismo. Ma sul fatto che l'unificazione sia stata sostanzialmente una guerra e un'occupazione mano militari, fuori dubbio. Detto questo, ad oggi, 2011, guardando avanti, lo dico all'amico di Gaeta, se il tasso di parassitismo, di evasione fiscale, di improduttività di tre regioni italiane, che sono Campania, Calabria e Sicilia, supera quelle di tutto il resto d'Italia, se la regione Sicilia spende per il personale regionale 1.700.000.000 di euro e la regione Lombardia solo 200.000.000 di euro, e siamo di più e siamo più grossi, adesso non si può imputare ai Savoia quello che oggi nel 2011, il numero di spazzini di Napoli che non ha eguali nel resto del mondo, e Napoli vediamo come è messa dal punto di vista dei rifiuti, non si può imputare ai Savoia. Quindi guardando avanti, perché alla Lega non interessa la polemica spiccia su chi festeggia, non festeggia, il 17 marzo io lavoro, vado in ufficio in comune a Milano, ma chi festeggia ha tutto il mio appoggio e tutto il mio rispetto, ci mancherebbe altro, io spero di fare identica trasmissione interessante dal punto di vista storico e culturale, ma più ficcante dal punto di vista economico l'anno prossimo, esatto. Magari festeggeremo il 151esimo di un'Italia federale, e quello sarà il vero compimento del risorgimento, altrimenti manca un pezzo che è il pezzo più importante, quello delle responsabilità locali, e ripeto, lo dico all'amico di Gaeta, dopo 150 anni, seppur condividendo le sue critiche all'origine, bisogna più mettersi in gioco della risorsa. Allora, ministro Meloni, nella sua saggezza di chi oggi, poi dicono i più giovani, lei è più giovane, però oggi fa la parte della saggezza composta nazionale, della sintesi nazionale, vede com'è, che poi alla fine in politica si va avanti perché si hanno dei meriti. Quindi a lei concludere, però parlando anche a questa parte del sud che ribolle. Ma guardi, io francamente parlo volentieri anche a questa parte del sud che ribolle, anche se insomma poi le considerazioni storiche che vengono fatte francamente in alcuni casi mi sembrano un po' diciamo così curiose, nel senso che insomma abbiamo già detto che il risorgimento è stato tante cose, sicuramente è stato anche un episodio doloroso per tanti versi, come sempre accade ai grandi sommovimenti della storia. Però insomma adesso imputare, però non è stato redere, insomma, no? Ecco, fare dei paragoni impropri oppure dire che non si debba celebrare perché non c'era l'Istria Dalmazia significa sommessamente che l'Istria Dalmazia non ce l'abbiamo neanche adesso. Non si è capito perché dovremmo chiamarci Italia se il problema è l'Istria Dalmazia, fermo restando che chiaramente su Istria Dalmazia ho fatto anche tante battaglie nella mia vita. Sì. Senta, lei che farà il 17? Io il 17 intanto parteciperò ovviamente a tutte le celebrazioni, poi ricordo, mi permetto Giannino di utilizzare anche questo dibattito come interessantissimo lei ha messo in piedi per ricordare che il Ministero della Gioventù ha portato avanti, sta portando infatti avanti un'ampia quadro di iniziative che si chiamano Gioventù Ribelle, che sono dedicate a raccontare la storia dei ragazzi che hanno fatto il risorgimento, lo accennavo poc'anzi. Un po' alla James Dean, e quindi insomma torneremo insieme al ministro a parlare di queste cose, perché ripeto, a me sembra che il ministro sia un po' sottovalutata nel peso relativo e futuro della sua compagine. Bene, festeggi chi vuole, io insomma non li festeggio, però non ci posso fare niente, non li festeggio, io sono mazziniano, repubblicano e non ci posso fare niente. Sentite, l'appuntamento intanto è a domani, perché mi stanno sfumando. Linea Generale Radio. Yeah.